Voglio sentirmi libero, stasera esco e me ne vado in giro in qualche posto. A importunare tutta questa bella gente, sì, ad annegare il malumore tra la gente. Mi tiro al lucido come in un'occasione importante, per poi distruggermi con fare affascinante. Nessuna sarà in grado di resistermi, non ci sarà nessuno in grado di resistermi. Ma già una voce dentro dice: cosa fai domani? Te ne pentirai. Domani voglio incontrare i miei demoni, guardarli ancora in faccia, sentire il loro peso che mi schiaccia. E quindi bevo, bevo, bevo e vado giù. E quindi bevo, bevo, bevo e vado giù. Mi scivola addosso e dopo questi due bicchieri già mi riconosco. E bevo, bevo, bevo, bevo e vado giù. E bevo, ballo, ballo, bevo e ci sei tu. Che dici, cosa fai? Domani giuro te ne pentirai. Domani voglio incontrare i miei demoni, guardarli ancora in faccia, sentire il loro peso che mi schiaccia. E quindi bevo, bevo, bevo e vado giù. E quindi bevo, bevo, bevo e vado giù. Voglio incontrare i miei demoni, sì. Non fare quella faccia, dalla tua mente in gabbia gli obblighi scaccia. E bevi e vieni, bevi e vieni giù con me. Ci bevi e vieni, bevi e vieni giù con me. E non lo so cosa mi spinge a farlo.